nuovo buongiorno, dare il buongiorno seppur puntuale però per un termine ormai quasi al termine della stagione 2023-2024 per Jazz Live. Sapete che lo dico con una punta di mestizia, certo ha richiesto lavoro, impegno, passione, entusiasmo, ricerca delle interviste, le playlist, tanto lavoro però anche tanta bella musica, mi permetto di dire. Sono un po' così, tra il dolce e amaro. Alfredo, buongiorno. Il nuovo buongiorno, beh, finale, come sempre si ringraziano i truccatori, i costumisti, ecco, i registi, i soggettisti, gli elettricisti, gli scenisti, eccetera, eccetera. Detto questo, sì, è stato un anno intenso, come sempre, grazie poi all'attività del Torione, grazie ai festival che abbiamo inscandagliato, dicendo le nostre scempiaggini con tanta bella musica però, quindi che hanno riscattato questo, sì, le povere persone al microfono. Detto questo, oggi invece in finale guardiamo i festival che verranno, diamo uno sguardo al futuro. Certo, ci spostiamo in avanti, ma è il momento in cui escono i concerti principali nei teatri per l'edizione 2024 del Bologna Jazz Festival. Questa sì è un'anticipazione ridotta, poi avremo motivo di approfondimento pian piano nel nostro format. Vi anticipo anche che nella seconda parte ci congediamo e andiamo al mare, però tempo al tempo. Iniziamo con l'edizione di Bologna Jazz Festival che sarà dal 31 ottobre al 17 novembre nelle sedi... Io ho detto dal 21 ottobre. Dal 21 ottobre, cosa ho detto? 31. Ho tolto 10 giorni, no, non volevo, 21 ottobre, ogni tanto la vista gioca brutti scherzi, così è, 21 ottobre, 17 novembre 2024, le sedi Bologna, Ferrara e Forlì, la produzione Jazzer che comprende sia il Jazz Club di Ferrara e Crossroad, le vie del jazz in Emilia Romagna. Allora, come ben sapete, la produzione di Bologna si concentra con un programma che vede protagonisti quattro piazze. Per questa stagione saranno il Teatro Duse, quattro palcoscenici, scusate, il Teatro Duse, il Teatro Auditorium Manzoni, il Bologna Unipol Auditorium e andremo a chiudere poi con quello che è il Teatro Celebrazioni. Allora, questi quattro protagonisti e queste quattro realtà poi musicali più estese, vedremo in seguito la playlist che abbiamo creato, partiranno lunedì 28 ottobre al Teatro Duse alle ore 21:15 con Cécile McLaurin-Salvant, un interprete, una musicista che ha dato una voce soul con l'intersezione in jazz assolutamente forbita. Tra l'altro con lei ci sarà un pianista che nell'edizione precedente è stato protagonista in sala borsa di un piano solo veramente molto bello, è Sullivan Fortner, magari ne hai sentito parlare. Sì, Alfredo. Allora io, sì, per carità, è stato un bellissimo concerto, devo dire che la Salvan l'ho sentita nel 2023 al Festival di Bergamo. Lei è una cantante di grandissima qualità, che ama poi unire diversi spunti, diverse tradizioni, molto spesso gioca sulle aree tradizionali, questo è interessante. Nel concerto che ho visto io nel Teatro Donizetti di Bergamo cantava i classici. Sì, interpretazioni di standard. Con una classe, e devo dire, credimi William, che nel bis, acclamatissima, ha fatto un Nature Boy per solo voce, da brivido. Commovente. Ma è stato un momento di quelli che mi ricordo ancora un anno e passa. Comunque la piazza e il palcoscenico del Duse è particolarmente così per portare motivo di valore aggiunto, è una realtà che sta benissimo a teatro e appunto con questa interpretazione e anche narrazioni musicali Cécile McLaurin-Salvant sarà assieme a Sullivan Fortner, che già abbiamo citato, Mervyn Schubel alla chitarra, Yasasushi Nakamura al contrabbasso e Keita Gawa alla batteria, anche questo musicista che abbiamo così ascoltato in altre formazioni, in questo caso al Torrione. Allora, ho portato un brano dal titolo Ghost Song per iniziare la nostra playlist. Lei è Cécile McLaurin-Salvant. A tra poco. Going strong, but no matter how hard I try, something went wrong. I lied to keep our love going long. the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. My pride is my only company. Of me. I'll dance with the ghost of our love. I will dance with the ghost of our long lost love. Me la troverete in playlist anche per il brano del buongiorno, questa voce che ha un soul e una capacità narrativa molto intensa e poetica. Ma a proposito di poesia, qualche divagazione ci permettiamo anche all'interno di questa partenza per il Jazz Live odierno. Dicevi del Locomotive, Alfredo? Sì, molto più vicino che in autunno, il 30 di maggio a Loconto, vi sappiamo lì in via Serlio, sì. Insomma, c'è questo gruppo, l'Irreversible Hente Clements, che è un gruppo di free jazz ritrovato, rimodulato, con la cantante Karnai Lewe, che abbiamo conosciuto come More Mother anche al Festival di Bergamo, sì. Anche poetessa, è un personaggio che lavora con i computer. Qui in questo caso, in questa formazione, il batterista Chad Holmes, il batterista Achilles Navarro, il sassofonista Ken Ehringer e il bassista Luke Stewart. Diciamo che il loro primo album, The Wire, è considerato il più bel album di quell'anno, e siamo nel 1917, di così. Ok, questo, 2017. Sì. Oggi con le date siamo c'è chi toglie 10 anni, c'è chi toglie 100 anni, sì, avanti Cristo questo. Comunque al Locomotive, quindi un appuntamento, credo che gli amanti del jazz, in particolare di quello che ama giocare con i stili rinnovandoli, non è, certo, da perdere. Con l'elettronica, scusa, anche che sono un argomento, sì, certo. Domani Salpinas, scusami, ah certo, no, anche perché Salpinas lo sottolineo insieme al Breakfast Club, perché siccome la realtà di stagioni per estesa va con l'estate in maniera diversa, magari il Jazz Live viene sospeso, ma i contenuti saranno in Breakfast Club, altri suoni e ovviamente Salpinas, se ci sono concerti, sì, da sottolineare. Tra noi Jazz Live e Salpinas ci vediamo un po' i compiti, noi seguiamo la cronaca, invece Salpinas con i dischi di Sandro Barone segue le novità discografiche, certo. Soprattutto. E allora le novità discografiche sono Kamasi Washington, questo poliedrico e anche molto versatile, con questo suo album, come si chiama? Fearless Movement. Ed è curioso che è un album molto nero, come sempre fa Cavaggi, però il brano che ascoltiamo è un pezzo di Astor Piazzolla, molto bello lui questo sax, perché lui è molto, per me, per giudizio personale, molto alti e bassi, Kamasi Washington. Poi c'è Sir James Brandon Lewis. Ah, Brandon Lewis. Bravissimo, sì. Conclamato, questa volta che diventa ospite di questo gruppo The Mesetics. E infine chiude questo personaggio salutato come un grandissimo sassofonista, tre sassofonista, il terzo sassofonista che ha sempre celebrato da un beat con 4 stelle su 5, che è rarissimo, Isaiah Collier. Quindi domani alle 11. È un All-Star Game, è una presentazione veramente di novità con Salpinas. Per quanto Festival Jazz di Bologna 2024, beh, è molto atteso ovviamente. Abbiamo il nome, abbiamo il musicista Pat Metheny. Poche presentazioni. Qui, sai, possiamo aggiungere che io l'ho conosciuto nei dischi Wichita Fall, S.O. Wichita Fall per la ACM e altre produzioni con Lyle Mails, la collaborazione con Nana Vasconcelos. Anche se il mio disco preferito è un altro, è Secret Story, che vado a proporvi con questo brano The Long Summer. Già titolo tanto attesa, chissà. Lunga estate. Beh, Pat Metheny è un chitarrista che esplora diverse modalità di suono. Certo, abbiamo trovato in lui anche una sorta di aspetto manieristico, se vogliamo, anche molto fruibile. La classe rimane, certamente un grande nome, e la presenza di Pat Metheny sarà, per quanto riguarda il suo progetto, che ha un nome molto particolare, Dreambox Mundial Tour, gioco di parole, sarà al Teatro Auditorium Manzoni alle ore 21:15 domenica 3 novembre all'interno sempre del Bologna. Sì, Pat Metheny è un grande riferimento di chitarra, da una parte Metheny, dall'altra parte Freezer, sono quei personaggi che dagli anni 80 in poi hanno in qualche modo rischiarato, inciso. La mia disco preferisco di Pat Metheny è quello con Ornette Coleman, per me è bellissimo. È vero, grandissimo, bellissimo quello lì. Anticipazione dei quattro concerti, siamo partiti con Cecil McLaurin Salvante e il suo soul molto incisivo e allo stesso tempo raffinato, per passare a Pat Metheny con il progetto Dreambox Mundial Tour per domenica 3 novembre al Teatro Auditorium Manzoni. Stiamo ascoltando The Longest Summer, tratto dal disco, un disco tra i suoi più sottovalutati, per me uno dei più belli, che è Secret Story. Musica per innamorati anche. Infatti Metheny ha un pubblico molto vasto, perché è anche, come dicevi giustamente, molto comunicativo, fruibile. È una parte. Quindi da una parte sono i puristi che amano la tecnica, d'altra parte è un pubblico più vasto che invece ama metà l'atmosfera. Poi come ogni anno c'è il tributo, abbiamo ascoltato e avuto modo di sentire concerti dedicati a Thelonious Monk, a diverse figure che hanno fatto la storia del jazz. È il turno di McCoy Tyner per questa stagione, particolare come scelta, però mica sì, male. Sì, perché McCoy Tyner non è un musicista, un pianista di quelli che hanno brillato in modo eccelso il panorama delle tastiere, perché certo non è né Bill Evans né Keith Jarrett, però un musicista che ha inventato un modo di suonare, soprattutto un musicista che nel gruppo del quartetto mitico di Coltrane aveva un ruolo veramente importante nella dinamica del brano, perché c'era l'impetuosità di Coltrane che si alternava con la relaxing di McCoy Tyner, che aveva nel meccanismo tensione e distensione della musica, che è fondamentale, era decisivo. Tra l'altro, questo musical tribute to Legacy di McCoy Tyner, mercoledì 6 novembre l'Auditorium Lunipol, avrà come gruppo Steve Turner al trombone e Harvey Sharp al contrabbasso, nonché un duo che spesso suona insieme, Antonio Farò al pianoforte e Chico Freeman al sassofono. Chico Freeman non è un caso che da 16 anni andò a scuola da John Coltrane, ed è un coltraniano dichiarato, convinto, certo. Sì, l'abbiamo visto in concerti in cui si mostrava fino in fondo la sua essenza e senza ritegno, tra virgolette in senso positivo, la sua derivazione coltraniana, quindi non la nascondeva. Nel tributo a McCoy Tyner, anche se Farao suona in modo diverso dei blocchi della mano sinistra di McCoy Tyner, però vista la tecnica di Farao, per me si conformerà, può stare, lo sentiremo, certo. Comunque con il rapporto McCoy Tyner e Coltrane, Farao, Chico Freeman, insomma, ricorda. E io aggiungo che c'è anche un musicista molto curioso che è Steve Turret. Io ho un disco di Steve Turret dove suona le conchiglie, oltre che lui in questo andrà caso ad Angelica. Certamente può tranquillamente andare da Angelica. Lui qui si presenta con la formazione appena elencata da Alfredo al trombone. Per quanto riguarda, a me ha colpito McCoy Tyner in una parte contenuta in Africa Brass The John Coltrane Quartet, dove lui, dopo l'assolo di Coltrane su Green Leaves, brano meraviglioso, da urlo, sentiamolo. E il dialogo con Reggie Workman al contrabbasso è un assolo meraviglioso. Tra l'altro Grimliss ho suonato mille volte. Puoi ricordare quella di Chet Baker, Paul Desmond, bellissimo. O quella di Jersey Band, che è completamente diverso, ma Grimliss, brano meraviglioso, mitico, trasformato mitico in standard. E poi con Coltrane, bellissimo. E allora il tributo a McCoy Tyner, a Musical Tribute to the Legacy of McCoy Tyner, per mercoledì 6 novembre a Bologna, Unipol Auditorium. Dulcis in fundum. Allora, si parla di Africa e jazz. Molte volte quando si chiacchierano tra noi, per quanto riguarda anche quei corsi che tenevi, e dividevi la storicità del jazz per continenti. Certo. Sull'Africa c'è un aspetto molto singolare, sì, per c'è quanto riguarda il jazz. Sì, c'è questa musica che arriva dal Corno d'Africa, dall'Etiopia, come nascita, e che riporta in sé tutto lo spirito ancestrale della madre nera. Lui è mulatto Scass, che peraltro poi lui ha fatto la sua maturazione nella scena londinese, perché sì, si è in Europa, no, sì. E poi ma è una musica che tiene in sé tutta questa diversità, oltre che essere dentro la grammatica jazzistica, che in alcuni passaggi almeno ricorda molto, per dire, le operazioni della Sun Orchestra in certe parti, Intergalactic, sì, sì. E comunque lui vibrafono, tastiere, percussioni. Questo concerto venerdì 8 novembre e paghi uno, prendi due, perché tra la grande formazione, senza far torto a nessuno, troviamo anche Alexander Hawkins al pianoforte, che chi ci ascolta sa che è uno dei nostri preferiti, Strat Record uscì una rassegna dal titolo Inspiration Information, due progetti musicali apparentemente lontani ma così vicini. E quando esce questo disco con Mulatto Astatke insieme agli Heliocentrics, una formazione di funk sperimentale. Heliocentrics, ricordavamo Sarra, Heliocentrics. Ah, giusto. Guarda, il caso non esiste. In no, effetti. Non esiste. Tutto si tiene. 2009, secondo me, fu il disco dell'anno. Fu importante. Sia in vinile che in CD, per dirti la mia mania per questo. Ah, tu duplichi. Ma cos'hai a casa? Cane. Hai un castello o un appartamento per chiudere i dischi? Funky sono veramente intense, la tradizione dell'etio jazz. E a tale proposito, brevissima citazione cinematografica: Broken Flowers, un film con Bill Murray, dove oltre che essere bellissimo, il protagonista interpretato da Bill Murray è un appassionato di questa musica. E come io, lui aggiunge le cassette, lui raccoglie queste sonorità in cassette. Anch'io avevo la scassa in cassetta, avevo, sai? Vuol dire che andrò a trovare anche il mio amico Alexander Hawkins, ecco, che è stata perfettamente. No, lui sta dappertutto. Lui sta ovunque, sì. Dunque, è l'8 novembre, teatro celebrazione. Ricordiamo anche l'intera formazione, per non far torto a nessuno. A scasso, dicevamo, le varie tastiere, nonché percussioni e vibrafono. Byron Waller alla tromba, James Harbin ai sassofoni e i flauti, ai Reeds, come si dice, al violoncello, che è Danny Keane, poi Hawkins l'abbiamo già citato, John Edwards al contrabbasso, Joe Scott alla batteria e Richard Houtlander Biker alle percussioni, in collaborazione con Locomotive, che ama sempre queste questa musica di frontiera. questo brano non manca mai anche nei miei DJ set. Ok, questa è una piccola nota per concludere questa prima mezz'ora. Queste le anticipazioni, e poi avremo modo, e ne abbiamo di tempo, per sottolineare. Sapete che noi seguiamo il Bologna Jazz Festival in maniera oltre che dettagliata, passo passo, quindi, giorno per giorno, anche sul sito. E seguite Jazz Live anche online con, certo, www.radiocittafugico.it. un po' di musica e poi ci prepariamo, che ci spostiamo verso il mare. Verso il mare, ok, sì. A tra poco.